12 mamme sopra una panca stavan facendo una cuffia bianca, una cuffietta piena di fiocchi, 12 cuffie per i marmocchi. Per i marmocchi non giunti ancora, ma che ben presto, forse all'aurora, avrebber messo il capino biondo in faccia al sole, in faccia al mondo. 12 mamme sopra una panca, la ninna nanna che mai non stanca, canterellavano ai bei poppanti, 12 mamme, 12 canti, dormono tutti dentro la cuna, 12 bimbi, guarda la luna. La candeluccia si sta smorzando, 12 mamme stanno vegliando. 12 veglie, preghiere a Dio, Dio buono, vigila il bimbo mio. Passano i giorni, passano gli anni, passan le fasce, le cuffie, i panni. Spuntano i denti e un giorno in fretta il nome mamma già si balbetta. Si chiede il pappo, la minestrina, un po' per volta poi si cammina. Passano gli anni velocemente, restan le mamme che amaramente pensano a quando lì sui ginocchi dondorellavano i bei marmocchi. Un giorno scuotesi tutta la terra, romba il cannone, questa è la guerra. 12 mamme son trepidanti, con gli altri parton 12 fanti. 12 vecchie sopra una panca, come la neve la testa è bianca, 12 vecchie testine bianche, vegliano sempre ma non son stanche. 12 mamme, 12 cuori, 12 affetti, 1000 dolori. 12 pianti, così va il giorno, 12 attese, nessun ritorno. Ninna nanna, nanna ninna.